Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Da Doris Lessing a Diana Till, due scrittrici novantenni affrontano il tema della vecchiaia femminile, un tabù per l'attuale società occidentale che cerca di esorcizzarlo con l'ideologia dell'eterna giovinezza. Rifiutando il mito della donna forever young, entrambe le scrittrici tracciano una strada per far riconquistare alle donne il diritto all'invecchiamento. Tra le foto ricordo del Novecento che se ne va, una delle più indimenticabili è stata scattata qualche anno dopo l'inizio del nuovo secolo, precisamente l'11 ottobre del 2007. È l'immagine di una donna anziana e un po' dimessa che torna a casa dopo aver fatto la spesa. Dalla crocchia dei suoi capelli biondo-grigi, qualche ciocca si stacca disordinatamente. Addosso ha un lungo gilet che sembra una palandrana. Ovviamente niente trucco su una faccia allegra e serena, ma non troppo intima, sembrerebbe, con le creme di bellezza. Doris Lessing stava allora per compiere 88 anni e aveva appena vinto il premio Nobel per la letteratura. Scriveva da quando aveva 15 anni e il suo Il taccuino d'oro, negli anni 60, era diventato la Bibbia di un nuovo insofferente e problematico tipo di donna del dopoguerra. A lungo attratta dalla fantascienza, negli anni Ottanta si era di nuovo volta al realismo e alla vita quotidiana, pubblicando tra gli altri un libro che aveva duplicato il successo e anche la sorpresa del taccuino, il diario di Jane Somers, Feltrinelli. Jane era lì una narrante, una donna in carriera di 49 anni, efficiente ed egocentrica, ma la vera protagonista era Modi, una sporca bisbetica lunatica magnifica novantenne. Nel romanzo, ballerina sul palcoscenico dell'esistenza o acrobatica top model su un'incerta passerella, la vecchia e malandata signora cattura e affascina l'attenzione del lettore in un crescendo di sorprese, trasformando la vita della donna che la racconta, ma anche l'immagine della vecchiaia femminile in letteratura e non solo. L'attenzione e l'ammirazione che il libro suscitò non fu dovuta solo al talento dell'autrice. Lessing, con la sua Modi, aveva preso di mira un tabù dell'attuale società occidentale, una materia non solo imbarazzante ma anche impraticabile, come un organo troppo infiammato, uno di quegli argomenti che, se proprio si deve, possono essere trattati solo con le molle dei più accurati quanto fasulli luoghi comuni, la vecchiaia femminile. Sempre più intollerabile. All'antico archetipo di sterile e nefasta decrepitezza, dalle parche alle streghe, si è sostituito un nuovo e perentorio luogo comune. L'ideologia dell'eterna giovinezza, della donna forever young, che altro non è che un'ulteriore sprezzante condanna dell'invecchiamento. Ma la novantenne indomita che occupa con le sue storie e la sua irriducibile vitalità il cuore di Jane Somers alias Doris Lessing si smarca da entrambe queste figure. Talvolta sembra ma non è una strega cattiva e non ha nulla in comune neanche con le dame sempre curate, palestrate e ben pettinate che devono idealizzare sui teleschermi e carta patinata la terza età femminile. Quello che ha Modi, cioè quello che la scrittrice riconosce e ci obbliga a riconoscere in lei, attraversando lo specchio sporco e graffiato della sua immagine per entrare in contatto con la sua vita, è semplicemente la sua individualità, con un'implicita postilla. È l'individualità che amiamo o che potremmo amare in una persona, non l'età. Né lifting, né rivendicazione sociale, né superdonne, né vittime. L'importante è mantenere una certa amicizia con la propria vita, quella passata e quella presente, ma anche quella futura, anche se per essa è impossibile non prevedere un unico conclusivo colpo di scena. È con questa convinzione che è ora scesa in campo un'altra vecchia signora indomabile, l'inglese Diana Athill. A 91 anni compiuti, ha deciso di scrivere il suo De Senectute e, per non lasciare dubbi in proposito, l'ha intitolato Da qualche parte verso la fine, appena tradotto per Burr Original con grande ritmo e precisione da Giovanna Scocchera. Athill è nata nel 1917. Ha esordito tardi come scrittrice, ma ha passato buona parte della sua vita in mezzo ai libri come redattrice di un'importante casa editrice londinese. Ethel non fa sconti agli sgarbi del tempo, al decadimento, ai tanti tradimenti del corpo, ma su una cosa tiene duro. Niente rimpianti e niente nostalgia, niente fuga verso il passato, cioè, ma neanche ritorni al futuro. Come Catone il censore, è convinta che vale la regola per cui si raccoglie ciò che si è seminato. Lei ritiene di aver fatto una buona semina, ma attenzione, è una donna che non si è mai sposata. Si è ritrovata a fare la moglie di un ex amante solo nel momento che per ragioni di malattia lui ha avuto bisogno di lei. Non ha avuto figli, ha lavorato con soddisfazione ma senza medaglie, non ha molti soldi. È insomma il contrario di quell'opprimente stereotipia attuale della donna realizzata che deve avere infilato ogni tipo di perla nella sua collanina esistenziale per convincersi e convincere d'avercela fatta. Su sesso e giardinaggio, sull'amore e sulla letteratura, sulla morte e sull'amicizia, Diana Ethill ha le sue idee. Al contrario di tutti i buoni samaritani di oggi attrezzati di carta e penna per darci le istruzioni per l'uso di qualsiasi evento della vita, lei ci tiene a parlare solo per se stessa, ma qualche suggerimento trapela. Rispetto per le idee degli altri, e però anche per le proprie, ironia, benevolenza verso il creato e soprattutto plasticità. È vero, racconta, che molte entusiasmanti possibilità sfumano nel ricordo, ma ci si può permettere di godere delle esperienze senza complicazioni inutili e a fronte delle perdite inevitabili, silenziosamente, sotterraneamente, al riparo di sguardi indiscreti, si fa strada una curiosa sensazione di libertà mai provata prima. Avete ascoltato alcuni estratti dall'articolo di Elisabetta Rasi, Quel tempo oltre le rughe, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. L'Istituto dei Ciechi di Milano apre un ristorante nell'oscurità, a cena al buio, per capire come vivono ogni giorno i non vedenti. Cellulari spenti e nessuna fonte luminosa, per riscoprire il valore dell'ascoltare e lo stimolo dei sensi innescato dai profumi e dai sapori dei cibi. Un omelette tra due fette di pane tostato. Secondo il protagonista cieco dell'ultimo romanzo di E.L. Doctorow, Homer and Langley, è questo il cibo più facile da maneggiare per chi non vede. Al tratto nero, il ristorante completamente al buio appena aperto dentro l'Istituto dei Ciechi di Milano, in queste sere d'estate servono invece per 50 euro una cena che comprende bocconcini di mozzarella e melone a tocchetti per antipasto, trofi ai gamberi e zucchine, risotto al taleggio con le pere, roast beef, patatine e tiramisù. Tutte pietanze che occorre intuire o meglio riconoscere con i quattro sensi rimanenti. Se da vedente scegli di fare questa esperienza estrema, sei infatti nel buio più buio che c'è. Banditi i cellulari non tanto per le suonerie, ma per quel lieve bagliore che rovinerebbe tutto. Abbandonati fuori dalla sala persino gli orologi con le lancette luminose. A momenti cacciata una troupe del TG regionale che la sera dell'inaugurazione ha acceso un riflettore. Entri timoroso e circospetto, la mano appoggiata sulla spalla della persona che ti precede come i ciechi nel quadro di Bruegel. Poi arriva il tuo angelo custode, o come preferisce chiamarlo il presidente dell'istituto Rodolfo Masto, il mediatore culturale, cioè un cieco che ti spiega come comportarti. Davanti a te hai un piatto, due bicchieri, un panino, una forchetta, un coltello e una posata per il dolce, ti dice. E mentre ti rilassi perché capisci che non è prevista la minestra, cominci a orizzontarti nello spazio. Ma accidenti, quanto è nera l'oscurità. Se poi ti viene sete, meglio scegliere chi terrà la bottiglia del vino per tutto il tavolo, consiglia fermo l'MC. Sarà lui a versarvelo quando glielo chiederete. Dovreste toccare le bottiglie, ricordatevi però di prenderle dalla base e non per il collo, così non cadono. Garantito che la psiche dei commensali a questo punto comincerà a reagire. La signora alla tua sinistra prima comincerà a interrogarsi sulla condizione di chi senza vista vive per sempre e poi ti racconterà la sua infanzia agreste vicino a un allevamento di maiali. Il buio invita alla regressione. Il signore un poco più in là si farà forza con citazioni di Michelangelo o di Shakespeare, poi ripiegherà sulla più confortevole rievocazione della cipolla lessa di Tropea con l'origano. C'è chi fa paragoni con l'ascolto della radio al buio, in campagna. Ma la cosa più pertinente la dice chi riconosce che noi che vediamo, qui non sappiamo fare più niente, mentre i ciechi sono a casa loro. È il benefico ribaltamento che qui all'istituto si auguravano. Claustrofobia? Crisi di panico? Macchie sulla camicia, magari? Niente di tutto ciò. Si impara presto. Anche se quando si esce a rivedere le stelle, un sospiro di sollievo scappa e come. Masto, ideatore del progetto, spiega che Tratto Nero è una diretta filiazione di Dialogo nel Buio, la mostra che dal 2006 ha accolto 365.000 visitatori. Le cene si svolgono nei medesimi spazi interattivi, 800 metri quadrati divisi per ambienti che stiamo attenti a non mostrare mai illuminati, ma che comunque comprendono un'area parco, una marina, un mercato e una zona traffico. Lì dove da un po' vengono anche le grandi aziende a tenere i corsi per i manager, perché al buio si cementa lo spirito di gruppo e si selezionano i leader. Il ristorante è pronto per 90 coperti a sera, le prenotazioni aperte fino a metà luglio o fino a quando ci sarà gente disposta a venirci. Poi da settembre una razionalizzazione delle multiformi attività dell'istituto che permetterà di far funzionare insieme la mostra, il ristorante e pure il caffè noir per interessanti aperitivi all black. Quanto allo staff, Masto riassume. 7 guide cieche e 2 o 3 impiegati che ciechi non sono per l'accoglienza all'ingresso. Sì, i cuochi ci vedono. Se ci andate, il numero per prenotare è lo 02-7639-4478, sappiate che per 2 giorni non parlerete d'altro. Ma se vi venisse il bisogno di sdrammatizzare, aggiungiamo che nella Milano da bere, al buio, a qualcuno è venuto in mente che un posto così è perfetto per le coppie clandestine. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Egle Santolini, Appuntamento al buio, che più buio non si può, dalla Stampa del 23 giugno.